CRM Happy Radio. Déjà vu su CRM Happy Radio. Buongiorno, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di CRM Happy Radio. Inizia un nuovo appuntamento con Déjà vu, come diceva la vociona prima, e insieme a Mary Catalana ai microfoni con voi fino a mezzogiorno. Anche per questo giovedì del 27 di ottobre è spuntato il sole già da qualche ora, visto che per tutta la notte o quasi ha piovuto. Anzi, il tempo con noi è molto molto clemente, mentre in Italia sappiamo bene che cosa sta succedendo, tutto quello che di brutto appunto porta questo maltempo un po' in tutta Italia e le catastrofi che stanno succedendo. Insomma, noi siamo davvero fortunati, ci dobbiamo ritenere così. E va bene, anche oggi naturalmente la musica parla da padrona, musica che anche voi potete segnalarci ai nostri numerini. Sono pronta per ricordarveli tutti: lo 0921 92 32 92 è il numero fisso, mentre per gli sms il 335 56 37 251. www.crmpiradio.it è il sito dove potete spulciare notizie e robe varie che riguardano appunto il mondo del CRM. Poi naturalmente ci potete seguire anche in streaming sempre dal nostro sito e poi tramite la pagina Facebook. Quindi usate anche questo social network per mettervi in contatto con noi, insomma, e raccontarci un po' la vostra giornata, come procede. Nel frattempo noi allieteremo il tutto come sempre con la musica che andiamo a sentire subito, continuiamo a farla scorrere sulle frequenze di CRM Happy Radio. E un grande successo di Sting, ovvero dei Police, quando ancora erano tutti insieme, Every Breath You Take. Ancora buongiorno e bentrovati a tutti voi. Every breath you take. Abbiamo appena cominciato l'appuntamento con Déjà Vu e già arrivano, piovono sms al 3355637251, no, di questo non posso far altro che essere felice e mettermi subito al lavoro per accontentare un po' tutti quanti. E fra poco, dopo la pubblicità, subito in onda Tiziano Ferro, quindi non andate via. Happy Radio. Differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro. Sembra difficile, la mia vita mi fa perdere il sonno sempre,

penso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. Grazie a Paola che ce l'ha segnalato al 3355637251. Siete sempre all'interno di Déjà Vu insieme a Mary Catalano, naturalmente, che vi fa ascoltare la musica che più vi piace e naturalmente la musica di oggi, di ieri, insomma tutta la musica che c'è per voi, e compreso anche il singolo di James Morrison. Questa volta questo lo scelgo io per voi, A One Let You Go, il singolo che sentiamo. Remember how you saved me now from all of my wrong. Yeah. And if this love just feel it, and if this life was here, there's no time to be alone, alone. Yeah, I won't let you go. Siete sempre all'interno di Déjà Vu insieme a Mary Catalano su CRM Happy Radio, anche James Morrison con I Won't Let You Go. L'abbiamo sentito grazie anche alle vostre segnalazioni, oltre che al fatto che piace tanto anche a me. Intanto un successo di qualche anno fa arriva dai Luna Pop. Vi ricordate Un Giorno Migliore? Sentiamolo. Cosa mi aspetto dal domani? Sono sole in faccia, no, ma in fondo io ci spero ancora che tu ci sia nel mio domani. E se ti incontrerò, spero di sfiorare le tue mani. Sole pure in mezzo alla gente, io e te, riscaldati dal calore di una persona in te. Se mi Radio. Expected the world, but it flew away from her reach. Naturalmente non potevano mancare i Coldplay con il nuovo singolo all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalana. I Coldplay che sono ritornati con questo nuovo album che li fa ritornare con le ballate di un tempo, quando appunto hanno cominciato a suonare con le sonorità molto più docili, molto più affini al loro stile. E non mancano però i ritmi, lo abbiamo potuto notare nel singolo precedente a quello che abbiamo sentito stamattina, ovvero Every Tears Drop Is a Waterfall, che abbiamo sentito praticamente per tutta l'estate. E poi c'è anche all'interno di questo nuovo album per loro, c'è un duetto con Rihanna. Loro stessi dicono che Rihanna è straordinaria e è stata una collaborazione d'eccezione, dicono, e la canzone praticamente è quella che è stata cantata meglio in tutta la storia dei Coldplay. Questo lo dice proprio il leader del gruppo, ovvero Chris Martin. Ha detto anche: avevamo scritto questa canzone pensando proprio a Rihanna e, 2 anni fa questo, e invece di regalargliela l'abbiamo cantata direttamente per inciderla insieme. Ci piaceva troppo e abbiamo pensato che lei fosse la persona adatta per cantarla insieme. Divertente, in forma e con profondi occhi azzurri, a Chris Martin non manca l'autoironia, come quando per caso cade per terra il microfono di un assistente ed esclama: è il mio ego che si ribella. Risate poi fra di loro, insomma. Ma non chiedetegli della compagna Gwyneth Paltrow, né della possibilità di duettare con lei, dal momento che ha dimostrato di essere intonata. Della vita privata non parla assolutamente, e quindi niente, non facciamogli domande di questo genere, perché altrimenti si arrabbia anche Chris Martin. Ok, intanto abbiamo gustato il suo nuovo singolo che si chiamava che si chiama Paradise, e continuiamo con la musica nuova qui su CRM, questa volta quella italiana, quella di Gianna Nannini, che sentiamo anche lei col nuovo, si chiama Mai per amore, sempre all'interno di Deja Vu. Di puro amore a ridarmi la vita, altissima.

distanza. Si dice che ad ogni rinuncia corrisponda una contropartita considerevole, ma l'eccezione è la regola, insidia la norma. Se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita considerevole, privarsi dell'anima comporterebbe una lauda ricompensa. Se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita considerevole, privarsi dell'anima comporterebbe una lauda ricompensa. Déjà vu su CRM Happy Radio. Yeah, man. So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Dance up, we're suddenly, we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Cause baby, tonight, the DJ got us falling in love again. Yeah, baby, tonight, the DJ got us falling in love again. So dance, dance like it's the last, last night of your life. Life won't get you right. Just right now, now, now, now, now, now, now. Gonna set the roof on fire. Gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down. Hands up. When the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body. Swear I've seen you before. I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Cause baby, tonight, then baby, I'm sure that you can. Better holler at Tyrone, let him know I'ma jump through your Fruit Loops, call a Chico Toucan. Went from the blocker, blocker, open locker, where them boys get loose like Walker Flocker. Now I'm as global as soccer, lale flaca. I wanna be your guy, no, not your doctor. Dale, abre ahí, papá Nicolás, baby, let me see. Yo soy el cubanito que está tostadito. Yo fresco, no, okay, me un poquitito. Let's take over yeah, the world. Baby, tonight, yeah, baby, tonight, DJ got us falling in love. Let go, falling in love. Oh, so dance, dance like it's the last, last night of your life. Won't get you right. La musica incalza qui a CRM Piredio, grazie alle vostre segnalazioni che stamattina pervengono numerose. Grazie al 3355637251, www.crmpiredio.it, il sito dove potete seguirci in streaming dovunque voi siate. Abbiamo già trascorso poco meno di un'ora e ancora fino a mezzogiorno ne avremo di belle cose da ascoltare, grazie anche al vostro contributo. Parleremo anche di Steve Tyler fra poco, che a quanto pare è caduto e si è rotto due denti. Il leader indiscusso degli Aerosmith adesso si dovrà rifare il sorriso, perché appunto si è fatto, sembra proprio male. Ne parleremo più in dettaglio fra poco dopo la pubblicità. CRM Happy Radio. Del singolo degli Aerosmith con la voce e la, insomma, l'uomo carismatico che è Steve Tyler, che abbiamo ascoltato con questo singolo. E c'è da dire che ultimamente gliene capitano un po' di tutti i colori. Nell'ultimo, praticamente, quello che è successo è svenuto mentre si faceva la doccia, procurandosi ferite al sopracciglio, alla bocca, e ha perso ben due denti, non proprio perso direttamente, nel senso che gli sono volati via fuori dalla bocca, ma si è capelli rotti, praticamente deve andare per forza dal dentista. Brutto incidente dunque per Steve Tyler, padre della bellissima attrice Liv. Il cantante degli Aerosmith ha dovuto insomma darsi da fare perché ha perso l'equilibrio a causa di una disidratazione dovuta a un'intossicazione alimentare, pensate, mentre si trovava nella camera di un prestigioso albergo di Asunción in Paraguay. Il concerto del gruppo americano è stato subito rinviato perché appunto è successo questo guaio e il cantante 62enne, pensate un po', è stato trasportato in una clinica privata per curare le ferite, che però insomma non sono così semplici, ci vuole tempo insomma. E l'unico problema sembrano soprattutto i due denti rotti, quello più grave, diciamo, il problema più grosso. E i medici contano di ripristinare il sorriso nel giro di poche ore, visto che il concerto previsto in Paraguay è stato rimandato solo di un giorno, per cui ancora un po' di pazienza per i paraguayani che volevano vedere appunto all'attivo Steve Tyler. E va bene, intanto noi continuiamo con la musica, c'è la musica italiana, quella nuova di Giorgia, e l'andiamo a sentire subito, anche perché ci state veramente mandando un sacco di sms per sentire questa canzone, per forza la dobbiamo sentire anche quest'oggi all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalano. Abbiamo ancora una bella oretta piena da trascorrere insieme fino a mezzogiorno, quindi continuate a chiamarci, continuate a segnalarci le vostre canzoni e a seguirci. Gli errori ne ho fatti, ne porto i lividi, ma non ci penso più. Ho preso ed ho perso, ma guardo avanti, sai dove cammini tu. Dimmi, ti diranno che sono una pazza, è il prezzo di essere stata sincera. Occasioni sai che non ritornano, ma fa bene lo stesso. Se la mia dignità è ancora giovane, dimmi, ti diranno che non sono ambiziosa, è il prezzo di amare. There's a

te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere il volo. Poi sposti i capelli e fai una smorfia strana che capisce soltanto chi ti ama. Gianluca Grignani torna più carico che mai con il suo nuovo album che si chiama Natura Umana. In 11 brani racconta l'amore, ma anche la fragilità umana e soprattutto la voglia, l'importanza di distinguersi, essere una persona unica, come canta anche in questo singolo in sottofondo che si intitola proprio Sei Unica. E c'è da dire che Gianluca Grignani potrebbe anche partecipare ancora al Festival di Sanremo, però magari preferirebbe parteciparvi in una maniera diversa dall'ultima volta che c'è stato. Ha detto non vorrebbe gareggiare, ma vorrebbe parteciparvi come ospite. D'altronde il disco è già uscito, comunque di sicuro agli inizi del 2012 torna con il nuovo tour e quindi con questo nuovo album che si porterà a spasso. Intanto ragazzi, arriva la pausa pubblicitaria, ci ritroviamo qua subito dopo e continueremo ad ascoltare la musica naturalmente richiesta anche CRM Happy Radio. Dizzy This Afternoon in Nickelback qui a CRM Happy Radio. E quest'anno, soprattutto quest'autunno, è sicuramente un periodo denso di uscite discografiche piuttosto attese, soprattutto per quanto riguarda il rock e tutte le sue sfumature. Fra i tanti grandi nomi che appartengono a questa categoria ci sono naturalmente anche Nickelback, la rock band canadese capitanata da Chad Kroeger, come Freddy Krueger, sì, sarà suo cugino, tra le più amate dello scorso decennio come band, che ha 3 anni di distanza dall'ultimo album, che si chiama Dark Hours. Pubblicheranno il 21 novembre prossimo il loro 7° LP intitolato Here and Now, e per promuovere il disco in attesa della sua realizzazione è stata fatta una scelta piuttosto curiosa, ovvero quella di realizzare 2 singoli paralleli invece di uno solo, ovvero Bottoms Up e When We Stand Together, anche se quest'ultimo è generalmente considerato quello principale. When We Stand Together è un brano ritmato e coinvolgente, il cui arrangiamento è prevalentemente acustico e comunque abbastanza soft. Come sempre, le ottime capacità vocali di Chad Kroeger sono il piatto forte di questo pezzo, in cui i Nickelback mescolano lievemente le carte rispetto al loro alle loro pubblicazioni, insomma, precedente. Arriva Raff. Aspettata, un sogno indescrivibile. La sensazione più delicata, profonda e così semplice. Ringrazio il cielo per la gioia pura che ora tu regali a me. Come pioggia fertile scendi a gocce piccole di sete, una vita che si era inaridita. Restando immobili presto scivoliamo via, infinite distese sorvoliamo. Questa canzone, così come tante, sarebbe trascurabile, ma ogni parola cercata nel cuore è un segno indelebile. Ringrazio il cielo e la fortuna di quel giorno che incontrasti me, come terra fredda. Pioggia, gocce tiepide, sostieni una vita già rifiorita. Rimanendo immobile, corri per le orbite infinite. Mi porti nel tuo sole. Se per la prima volta io ti incontrassi adesso, son sicuro che in un lampo ti amerei lo stesso. Come pioggia fertile scendi a gocce piccole di sete, una vita che sembra rinata. Restando immobili presto scivoliamo via, infinite distese sorvoliamo. Déjà vu su CRM Happy Radio. Summer stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps a crawling over me. Over me and over you. Quanta musica, quante canzoni, quanti singoli, quanti album degli U2, quanta musica questo gruppo straordinario ha sfornato, e quanto anche i giovani, quelli proprio più piccoli, continuano ad ascoltare questo mitico gruppo con grande entusiasmo. E loro continuano imperterriti, anche se ultimamente sembra sia diventato un po' incerto il futuro degli U2, reduci dai Q Awards, dove sono stati premiati come migliori artisti degli ultimi 25 anni. Nel presentare la riedizione dello storico Hashtag Baby, in un'intervista a Rolling Stones, Bono Vox ha dichiarato di non essere più così sicuro che in futuro possa ancora fare musica, insomma, perché un po' si sono stancati e stanno diventando anche grandi, devo dire. Gli due si ritrovano allo stesso punto ogni volta dal 1988 per fare sempre musica nuova per i grandi appassionati degli stessi, ma ora il ritorno sulle scene è di nuovo in dubbio, e The Age ha confermato qualche giorno fa che il gruppo potrebbe tornare il prossimo anno, ma che ci sono le stesse possibilità che non lo faccia e che ci sarebbe effettivamente del nuovo materiale, ma i lavori starebbero attraversando una fase di impasse. Hanno anche aggiunto: abbiamo da parte un sacco di canzoni, e io dico, ma che aspettate a pubblicarle? Vabbè, tra le migliori che hanno mai scritto, a quanto pare, sembra, a detta di Bono Vox, alludendo alla possibilità di tornare a cantare e smentendosi poi subito dopo, dicendo che ha però bisogno di un po' di tempo per riposarsi prima di perdersi nella musica ancora una volta. Dice che vuole portare la famiglia in vacanza, mi pare pure giusto. Al momento non desidera altro che sparire con il suo iPod, qualche libro e una chitarra acustica, insomma, in tutta tranquillità con la sua famiglia, e poi magari, chi lo sa, lo ritroveremo sulla scena musicale con queste canzoni a detta sua e dei suoi compagni, nuove e straordinarie come al solito. L'attendiamo senz'altro, gli diamo tutto il tempo che vuole, basta che poi ritorna. Ok, invece sono ritornati le vibrazioni con il nuovo singolo che si chiama Come far nascere un fiore. Ancora buongiorno, siete sempre su CRM Happy Radio all'interno di Deja Vu, sempre insieme a Mary Catalano che vi parla ai microfoni, e lo farà sino a mezzogiorno. Discuterne con te di quelle storie tenute nascoste perché troppo infime. nascono i fiori. Se vuoi potrai seppellirmi lontano da te, tra fratelli ci si può anche uccidere, però ricorda che stanno per tornare nei negozi con la prima raccolta di successi, praticamente un'antologia che arriva a 9 anni e 4 album dall'esordio discografico. Di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta, nonostante una produzione non certo elefantica, ma costantemente in evoluzione significativa in ogni suo capitolo. E quello che stiamo ascoltando in sottofondo è il nuovo singolo, si chiama Come far nascere un fiore, entrata in diffusione da pochissimi giorni e si annuncia la prossima pubblicazione del Best Of, proprio il singolo che lo fa, lo ad annunciarlo, e porterà lo stesso titolo l'album, appunto The Best Of, Come far nascere un fiore, e ci saranno, oltre ai grandi successi della band, anche altri due inediti. La canzone è improntata ad un lento e denso rock pulitissimo nella sonorità e carico come le migliori tradizioni che vedono appunto protagonisti le vibrazioni. Intanto adesso arriva la pubblicità, noi ci ritroviamo qua subito dopo, c'è ancora un sacco di altra musica da ascoltare grazie anche alle vostre segnalazioni, sempre al 3355636 RM Happy Radio. In your lover's eyes, you can touch it in a grain of sand.

parte del supermercato, ovviamente sempre supermercato PAM, Ferdico di via Cirincione a Cefalù. Per ogni spesa di valore uguale a o superiore a 35 euro, il cliente avrà diritto a concorrere all'estrazione di un voucher per una crociera di una settimana per due persone sul Mediterraneo, con partenza entro il 13 novembre 2011. Per partecipare dovrete sul vostro pugno scrivere i vostri dati personali, ovvero nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico, e firmare lo scontrino originale che sarà imbucato nell'apposita urna di fronte alle casse. L'estrazione avverrà in diretta radiofonica proprio su CRM Epiradio, in audio e video sul nostro sito, anche il nostro sito web, ovvero www.crmepiradio.it, attraverso il rinvenimento casuale di uno scontrino contenuto nell'urna, effettuato alla presenza di un notaio o funzionario pubblico incaricato. Per cui non perdetevi questo appuntamento lunedì 31 ottobre a partire dalle 17 sino alle 18:30, perché poi ci spostiamo perché dalle 19 sino a tardi ci saremo noi di CRM Happy Radio anche da un'altra parte, ovvero alla manifestazione Mangia Italiano e Vivi Meglio, manifestazione che si svolgerà a Cefalù dal 28 ottobre fino all'1 di novembre, e noi saremo in diretta da Piazza Duomo dalle 19 sino alle 22 ogni sera. Perciò non perdetevi questi appuntamenti con noi e con quello che succede un po' in giro per Cefalù, e appunto questi appuntamenti, scusate il gioco di parole. Intanto adesso è arrivato il momento di dare spazio alla pubblicità, noi naturalmente ci ritroviamo qua subito dopo ancora per qualche minuto. Happy Radio Déjà Vu con Mary Catalano. Ma people, this is mega unstoppable. Don't stop the party! This is that original, this has no identical. You can't hack my digital, future aboriginal. Get up off my genitals, I stay on that pinnacle. Kill you with my lyricals, call me verbal criminal. Send you to that clinical, subscribe you some chemicals. Audio and visual, can't see me, invisible. I'm old school like biblical, futuristic next level. Never on that typical, will I stop? Oh, never know. I ain't gonna stop until I'm done. Don't stop it. I ain't gonna quit until I've won. Now baby, don't you stop it, stop it. Turn it up, we dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking, cause they can't shut us down. And ain't no stopping, we gon' keep on rocking. Baby, ain't no stopping, you cannot stop us now. Now baby, don't you stop it, stop it. Now baby, don't you stop it. Don't Stop the Party, Black Eyed Peas, super richiesti ai nostri numerini, sempre CRM Happy Radio, sempre Deja Vu. Ormai siamo quasi alla fine per quanto riguarda questo appuntamento ultimo della settimana, oggi giovedì 27 ottobre, e siamo sempre più vicini alla prossima festa, alla festa di Halloween, che ormai è diventata anche una nostra festa, nonostante sia originaria degli Stati Uniti. Insomma, comunque sia, oramai la festeggiavamo anche qua davvero tantissimo, per cui ci stiamo già preparando le zucchette, le zuccone, stiamo già cercando qualche menù particolare? I'm tuned, the man on the moon. I live on the beach, get the sand out your shoes. And all of that changed since I met you. So we can leave that old shit in the restroom. Okay, now I'm into you, like you never knew. I'm falling for you, baby, I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, every finish line is the beginning of a new race, young money. You got me and I could not defend it. I tried but I had to surrender. Your style got me under the spell now. Left me no other choice but to get down. It's too late, it's too late, it's too late, it's too late. You got it, you got it, you got it, you got it. When I look into your eyes, it's over. You got me hooked with your love controller. I'm tripping and I could not get over. I feel lucky like a four-leaf clover. I'm into you, I'm into you. Get to, but all that changed, baby, when I